Dimmi i nomi. Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... Ah, lo sapevo. Ho sempre Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart. Ogni 15 giorni sul martedì autogestito da femministe e lesbiche. Eccoci. Ci sei? Eccoci, eccoci. Eccoci qua, sì, adesso ci siamo. Benvenute alla prima puntata di The Chart con Donna Sonica e Pinklo qui in studio. Allora, innanzitutto stabiliamo. Ah, non è un programma dove si parla di sesso. No. Quasi, forse, dipende. Può darsi, potrebbe capitare, sì. Può darsi, però non stiamo riproducendo The Chart come facevano Alice in Dial World, però ci piaceva questo suo modo di connettere, insomma, le persone l'una all'altra, comunque di trovare questa capacità di riunire persone che apparentemente sono magari lontane, invece fantasticamente, magari con 1, 2, 3, 4, 5, 6 zompi, eccoti qua, io e te siamo connesse. Esatto. No, infatti noi abbiamo preso spunto da questa idea di connessione, insomma, che poi magari ha avuto tantissimi sviluppi sia prima che dopo l'idea di Alice. Però chiaramente noi cercheremo di trovare le connessioni in qualcos'altro, quindi non necessariamente attraverso i legami sessuali, ma magari più attraverso legami artistici, politici e di costume, culturali anche in generale. Quant'altro, ma anche il gioco che in realtà vorremmo mettere in piedi e che ci piacerebbe coinvolgere e coinvolgesse anche voi che ci ascoltate, e anche appunto poi un po', senza esagerare, anche un po' di appunto di fantasia, trovare le connessioni tra un artista e un altro anche in maniera abbastanza fantasiosa, anche per agganci. Vabbè, lo vedrete oggi. Noi abbiamo giocato e il nostro gioco non ce lo siamo svelato in realtà, quindi ce lo sveleremo qui ai microfoni, nel senso che abbiamo fatto questo ping pong per cui Donna lanciava un pezzo, io cercavo le connessioni e gliene mandavo un altro, da quello lei ne cercava un altro e via così, fino a quando finiremo la nostra ora e un quarto parlando di artiste, di musiciste e di musica. E non sapendo dove andremo a parare. Non sapevo dove. In realtà lo sappiamo perché la scaletta ce l'abbiamo davanti, però non sappiamo come arriviamo lì e perché arriviamo lì, perché poi da ogni in realtà c'è più di una connessione tra un artista e un altro, c'è più di una sensazione tra un artista e un altro, c'è più di un'idea, quindi poi anche le nostre scelte saranno più o meno motivate, forse, chi lo sa. Beh, abbiamo chi ha studiato di più e chi di meno, secondo poi me. Abbiamo seguito comunque quelli che erano i nostri interessi, le cose che ci hanno stimolate di più. Intanto vediamo dei riferimenti se volete, insomma, interagire con noi mentre siamo qui in diretta, e twittateci su Women Chart. Women sarebbe WOMEN Chart, Chart, per quelle che non parlano tantissimo l'inglese. E se volete appunto mandarci una vostra chart, che quindi insomma, se la troviamo interessante potremmo anche dedicare una puntata, quindi insomma potreste anche magari intervenire con noi, womenchart.wordpress.com, dove poi troverete anche podcast e le playlist che manderemo oggi con le varie connessioni, così magari stimoliamo anche la vostra di fantasia. Partiamo. Il primo argomento da cui sono partita è insomma una serie che ho finito di vedere da pochissimo, che si chiama Orange is the New Black, che è una serie televisiva americana, insomma, di grande successo, molto interessante, con vari intrecci, vari sviluppi. Le protagoniste sono tutte donne. È ispirato a un libro che è appunto le memorie di questa tipa che si chiama Piper Kerman, che descriveva il suo anno in una prigione federale, quindi insomma ispirato a questo racconto della sua storia. E questa Piper Chapman, che è appunto sostanzialmente il suo alter ego televisivo, si ritrova traficato una borsa di soldi da un paese all'altro, si ritrova a scontare un anno e mezzo di prigione per traffico internazionale di droga. È molto carino il fatto che questa serie appunto è una serie collettiva al femminile, ci sono tantissimi personaggi, insomma, quindi ognuna di noi ci si può ritrovare nella sua personalità, nella sua storia. Quindi insomma ve lo consiglio, Orange is the New Black, lo trovate gratuitamente in rete. Per questa trasmissione hanno chiesto a Regina Spector, che è un'artista che ci piace molto, una cantante, una scrittrice, una pianista, di inventarsi una sigla, e quindi lei è venuta fuori con questo You've Got Time. Regina Spector. Eccoci qua. Eccoci qua. E insomma, questo è l'inizio del nostro viaggio, che si concluderà alle 18:15. Siete all'ascolto di The Chart, il nuovo programma del martedì autogestito femministe e lesbiche, in onda ogni 15 giorni a quest'ora, dalle 17:15 alle 18:15. E insomma, partiamo da Regina Spector. Allora, in realtà l'aggancio che io ho trovato è stato in qualche modo anche abbastanza, diciamo, semplice in questo caso, nel senso che Regina Spector è di origine russa. Lei è russa, naturalizzata statunitense, ma di fatto è russa. Forse si ricorderà anche quella fantastica copertina soviet, insomma, ci ha sempre anche giocato. Bellissima. Con questo immaginario, se l'è anche portato dietro, con questa anche idea del punk, che poi il punk è sempre stato molto vicino in qualche modo a, appunto, poi CCCP, per dire, insomma, ha un immaginario che ricorda, insomma, la grande Russia. E al di là di questo, anche per dissacrarla probabilmente, perché c'era solo da far quello, e chi la dissacra i giorni d'ossi ed è russa e sono le Pussy Riot, e hanno anche qualcosa a che vedere con la prigione, insomma, e hanno anche qualcosa a che vedere con la prigione. Infatti qui gli agganci erano tanti e molteplici, e tra l'altro ci va di parlare delle Pussy Riot perché l'abbiamo già fatto diverse volte ai microfoni del martedì, e comunque la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. Una delle compagne, delle ragazze, insomma, in prigione delle Pussy Riot ha protestato fortemente con lo sciopero della fame nelle scorse settimane, l'ha interrotto, adesso minaccia di riprenderlo, insomma, non... Solo per ricordiamo che sono dentro per puramente posizioni ovviamente politiche, motivazioni assolutamente politiche, e per questo stanno scontando appunto duramente anche il carcere in situazioni di isolamento, di lavori forzati, eccetera eccetera. Per cui ci andava, insomma, di raccontare e parlare delle Pussy Riot. E tra l'altro, tra le altre cose, sempre perché poi quando uno comincia a connettere poi parte e va con le connessioni, c'è un sito di queer arts culture che si chiama muffmagazine.com, muff con scritto M-U-F-F magazine.com, che parla del lavoro di una fotografa from Russia with love. Appunto, lei ha fotografato coppie, sapete, perché Putin, tra le altre cose, ultimamente, oltre a prendersela con le Pussy Riot, se la prende con gay, lesbiche e quant'altro in generale. In generale, diciamo che, insomma, la sua elasticità sulla libertà di espressione di parole è molto molto bassa. Purtroppo non solo lui, nel senso, non solo che... lui, sì. Sì, diciamo che stiamo parlando della Russia, per cui ci fermiamo lì, ma sì, l'elenco sarebbe lungo se no. E c'è questo lavoro di questa fotografa che è molto interessante, molto carino, un lavoro chiaramente di denuncia politica. Lei è andata in giro per la Russia a fotografare le coppie lesbiche, e appunto, e quindi, intanto, per andare avanti tra noi, ci ascoltiamo le Pussy Riot. Тебе надоели протухшие носки, папики твоего протухшие носки. Муж твой будет в протухших носках, всю жизнь будет в протухших носках. Мать твоя в грязной посуде, протухшие жрачки в грязной посуде, пережаренные курицы и моет полы. Мать твоя живет в тюрьме. Горшки отмывает, отстойно в тюрьме никогда не бывает свободы. Адская жизнь, господство мужчин. Выйди на улицу, освободи женщин. Нюхайте сами свои носки, жопу свою не забывайте чесать. Рыгайте, плюйте, бухайте, срите, а мы с радостью побудем лесбиянками. Сами лохи, завидуйте пенису, длинному пенису друга по пиву, длинному пенису из зомбоящика, пока уровень говна не дойдет до потолка. Стань феминисткой, феминисткой стань, миру мир, мужчинам конец. Стань феминисткой, уничтожь сексиста, убей сексиста, смой его кровь. Стань феминисткой, уничтожь сексиста, убей сексиста, смой его кровь. Rieccoci. Bel punk delle Pussy Riot, bello grezzo, aggressivo. Quindi Regina Spektor, le Pussy Riot. Io sono andata un po' anche, ho proseguito questa storia del carcere, degli arresti, eccetera, eccetera. Mi è venuto in mente che Fiona Apple, che è un'altra artista che ci piace molto, l'anno scorso era in tour negli Stati Uniti e quando si trovava in Texas, anche lì un posticino ameno, non proprio tranquillissimo, le fecero una perquisizione con i cani sul bus, sul tour bus, insomma, quindi una roba bella grande. Così, e scoprirono un po' di erba che si fumavano per rilassarsi da una roba anche abbastanza stressante. Ovviamente, essendo lei l'artista, se l'è cantata e l'hanno portata in prigione. E qualche giorno dopo, insomma, è stata rilasciata dopo poco, ovviamente, e un paio di giorni dopo aveva questa serata e c'è tra l'altro anche in giro un video che, insomma, che riprende questa sua tirata, questa sparata che ha fatto dal palco, perché ha detto: mi è successa questa cosa un paio di giorni fa, tutti sono stati molto gentili, molto, insomma, cortesi, le persone che mi hanno arrestato, tranne quattro sbirri e, diciamo, tutta una serie di epiteti che hanno cominciato a dire delle cose su di me, delle cose che volevano farmi, e pensavano non stessi ascoltando, non potessi ascoltarli. Invece li ho ascoltati bene, dice dal palco, so i loro nomi e fra poco, insomma, prima possibile scriverò per loro una bella canzone per farli diventare famosi. Quindi mi sembrava una cosa bellissima questa Fiona Apple, che sappiamo che ha avuto un po' di problemi nella sua carriera da un punto di vista discografico, insomma, per lungo tempo è stata ferma per problemi con la sua ex etichetta, per fortuna. A un certo punto aveva addirittura deciso di smettere di cantare, di suonare, però proprio in questi anni di pausa dalla sua musica, intorno al 2000, incise con Johnny Cash una cover di un bel pezzo di Simon & Garfunkel che si chiama Bridge Over Troubled Water, che poi vinse anche diversi premi. Di questo pezzo in realtà io preferisco un'altra versione, che è quella appunto che vi farò sentire, che è quella di Aretha Franklin, in cui lei suona anche il piano, che è appunto Bridge Over the Troubled Water. Don't trouble the water, I won't get along. E questa era Aretha Franklin con Bridge Over Troubled Water. E siete all'ascolto sempre di The Chart, sono le 17:40, siamo, diciamo, neanche a metà del nostro viaggio. Ora, io in realtà sono partita da dove eri partita tu, cioè dal fatto che questa è una cover. Che è una cover di una canzone di Simon & Garfunkel. E quando a me è venuta cover e sono venute in mente le artiste, a parte il fatto che sì, poi ci sono un sacco di strade che non ho preso. Allora, vi racconto la strada che non ho preso. Ho pensato all'artista, alle cover, ho pensato alle cover delle cover di artiste, ho pensato a Big Mama Thornton con Ball & Chain, alla versione poi fantastica che la rese in realtà famosa, che è quella di Janis Joplin, che sta nel disco Cheap Thrills, nell'ultimo brano, che in quel finto locale ricreato con i bicchieri di vetro che si rompono, che non è vero niente, se leggi un po' di biografie lo scopri, tu pensi che stava suonando veramente lui, invece no, stavano registrando pseudo live. Fantastico. Quella versione sconvolgente, ma la cosa più bella di quella versione è quando poi lei la cantò al Monterey Pop Festival nel 68 con seduta la cantante delle Mamas & Papa con la bocca spalancata, come tutte noi in realtà quando abbiamo sentito Janis cantare quella canzone. Che è un'immagine bellissima, perché sì, un artista che si emozioni così tanto ascoltando un'altra artista, esatto, che non è neanche molto conosciuta, è meraviglioso. E questa è la strada che non ho preso, Big Mama Thornton. Poi in realtà, perché la prima strada d'istinto che mi è venuta in mente è cover, ho pensato a Tori Amos e alla fantastica cover che secondo me restituisce tutta la capacità di scrittura che aveva Kurt Cobain quando ha scritto Smell Light and Spirits, che uno la vede arrangiata com'è, ma in realtà lui aveva una musicalità che poi, se uno ascolta l'unplugged, lo capisce pure. Esatto. Molto forte, aveva un'idea della melodia molto forte. E quando Tori Amos canta quella canzone al pianoforte, quindi completamente scarna, l'esatto opposto, ne restituisce appunto quella rabbia e quella poesia proprio cruda, e quindi ho pensato a Tori Amos. Ecco perché poi alla fine, e poi si è spalancato un mondo di possibilità. Esatto, mi si è spalancato un mondo di possibilità, perché parliamo di un artista che ormai ha una carriera lunghissima, e noi al martedì l'abbiamo ascoltato tante, una di quelle artiste che ha avuto anche una vita abbastanza, con episodi abbastanza forti. Comunque Mia Nagan raccontava dello stupro che aveva subito, poi anni dopo fece un disco sull'aborto che spontaneo, credo che insomma fu uno degli eventi brutti della sua vita, e in mezzo ha scritto tantissimi dischi, tra cui Under the Pink, uno dei suoi dischi più famosi, dove c'è Conflict Girls. Ma io metterò anche lì, in realtà connettendolo a me, uno dei pezzi che mi piace moltissimo di quel disco, che è Past the Mission. I don't believe went to move on. I said I was willing to hang. She said she knew what my book did not. I thought she knew what's up. Past the mission, behind the prison door. Smile. Ce la siamo sentita tutta fino, se lo meritavo, all'ultima sillaba. Sì, era Tori Amos con Pass the Mission. Poi vi ricordo che abbiamo aperto un blog. Intanto troverete sicuramente il podcast sul blog dell'MFLA, quindi mfla.noblogs.org. Però abbiamo aperto anche un blog della trasmissione dove potete lanciarvi, perché abbiamo aperto il forum, la pagina per voi, quindi se appunto avete la vostra classifica, il vostro The Chart, mandatecela e una volta al mese faremo la puntata con le vostre classifiche. Quindi su, se non siate timide, non vi vede nessuno, non lo so, come volete lo potete fare pure in forma anonima, vi inventate un nickname, non c'è bisogno. Comunque, del vostro nome è womenchart.wordpress.com, lo trovate lì, tanto metteremo il link anche su MFLA, così tutto rimanda a tutto, appunto in un fantastico gioco di rete, di connessioni. E troverete anche l'elenco della puntata che stiamo facendo e quindi della, insomma, la cassetta che vi stiamo proponendo con questo viaggio musicale. Sì, è vero, la cassetta, perché ricorda molto più la cassetta che la playlist. Sì. E la mia connessione è un po' complicata, quindi dovete seguirmi. Strano. Adesso vi ricordo che partiamo da Tori Amos, che come prima esperienza musicale forma una band che si chiamava Why Can't Tori Read, che significa perché Tori non può leggere. Il nome veniva dal fatto che l'avevano cacciata da una scuola di musica, a lei, nonostante fosse bravissima a suonare il piano, perché si ostinava a suonarlo ad orecchio e non imparava a leggere la musica, quindi giustamente fuori. Poi ha fatto una carriera che ha fatto e quindi poi ha fatto Pepe, chi se ne frega, insomma, suonandone due contemporaneamente. Chi ha mai avuto l'occasione di vederla dal vivo lo sa, sempre che si mette orecchio, in mezzo però. A due sempre orecchio. Un pezzo di questa sua prima band, quindi questa sua esperienza, prima esperienza musicale, chiamato Desert Storm, fu inserito nella colonna sonora di un film che si intitolava China O'Brien, che è probabilmente un film che nessuno di noi ha mai visto, un film d'azione degli anni 70, la cui protagonista è un'attrice che risponde al nome di Cynthia Rothrock, che è invece molto famosa per gli appassionati di film d'azione, soprattutto quelli con le arti marziali, insomma, quelli per cui è famoso Bruce Lee, ma in realtà Cynthia Rothrock, per chi è appassionato, è molto famosa. Lei ha tipo 5-6 cinture nere in varie arti marziali, è stata campionessa per 5 volte, insomma, è veramente una tosta sul serio, non soltanto nella finzione cinematografica. E quindi lei è una protagonista indiscussa, assoluta, di tutta questa serie di film anni 70 in cui c'era una donna tosta come protagonista. Uno dei film che ha fatto Cynthia è un film che ha suscitato la mia attenzione, si chiama Lady Dragon, e io ho visto un pezzo di questo film che si trova in rete, e la prima scena, senti se ti ricorda qualcosa, è così: lei esce da una chiesa, si è appena sposata, abito bianco insieme al marito, tutti intorno a festeggiarli, a lanciare riso, arriva una macchina con dei sicari che uccidono il marito davanti a lei. Ma lo sappiamo, e il resto del film, grande citazionista. E il resto del film chiaramente è la sua Lady Dragon che decide di vendicare, insomma, il suo appena sposato marito e uccide tutti quelli che si erano macchiati del terribile omicidio. Quindi, insomma, chiaramente Kill Bill. Kill Bill. Però la cosa interessante è che Tarantino ha citato la qualunque. No, c'è citato. C'è anche Lady Dragon. Sì, io non l'ho trovato. Anzi, dicono che praticamente è quasi il remake. Un remake. Ok. Nel film. Perfetto. No, ma lui non si nasconde. Vive quest'epoca. È un grande rimasticatore, lo sa. Quindi non ha problemi a dirlo. No, lo sapevo, l'avevo letto pure. L'avevi letto da qualche parte? Io l'ho visto, sì. Ed è praticamente identico. Insomma, ho visto una buona parte del film, che non è di mio gusto, però insomma è veramente ispiratissimo. In Kill Bill, non so se te lo ricordi, Uma Thurman si chiama Black Mamba, il suo nome, no? Black Mamba. E Black Mamba era ispirato, anche questa è un'altra citazione di Tarantino, a una serie TV degli anni 70 che si chiamava Black Mama White Mama, e il personaggio di Black Mamba è appunto anche un'ennesima, diciamo, come posso dire, grazie ad un artista che Tarantino ha amato molto e che ha molto usato anche nei suoi film, che è Pam Grier, perché Pam Grier nella serie TV degli anni 70 era appunto Black Mama. Non diciamo nient'altro su chi è e che ha fatto, a meno che qualcuno poi non lo sappia. Sì, benissimo. Quindi Pam Grier nella sua lunghissima carriera ha fatto di tutto e ha anche inciso cantato delle cose, in particolare questo pezzo che era usato nella serie, che si chiama I'm a Long Time Woman. Ritorniamo nella roba di carcere, perché appunto I'm a Long Time Woman significa ho una pena lunga da scontare. Pam Grier. I'm a long time woman, and I'm serving my time. I've been locked away so long now, I've forgotten my crime. Been working on the road now, I've been working by the sea, been a working Insomma, dicevamo, Pam Grier era Long Time Woman. Siete sempre all'ascolto di The Chart, siamo a metà del nostro viaggio, sono le 17.55, quindi abbiamo ancora questi 20 minuti più o meno di chiacchiere con voi. E allora a me arriva questa canzone, perché poi dovete sapere, ve lo raccontiamo, cioè, molto spesso, siccome o sono frutto di ispirazioni, di ragionamenti, ce le mandiamo via SMS, quindi ci arrivano queste senza neanche dirci ciao, no, solo il nome, la canzone. Ti sparo. Esatto. E quindi a me arriva questa, dico, ma poi chi è? Chi è? E come al solito, poi, perché appunto ignoranza nel senso che uno ignora, non per cattiveria, perché non si può mai sapere tutto. Insomma, vado a cercare ovviamente sul web, vedo la foto e dico, annaggia la miseria, e lei è la sorella, insomma, di nella serie televisiva che qui le nostre ascoltatrici hanno visto tutte, lo sappiamo, che pure a memoria la pure a memoria di Diel Ward. Lei è la sorella appunto di adesso non mi ricordo come si chiamava, oddio, c'ho un vuoto di memoria. Jennifer Beals, l'attrice, no, cercavo il nome, Betty. Betty, scherzi, sei serie di questo amore disperato. Insomma, appunto, c'era Jennifer Beals e quindi loro sono in questa serie insieme. Pam Grier ha una carriera lunghissima, cioè ha fatto almeno 70 film e ha partecipato appunto a diverse serie televisive. Insomma, si incontrano su questo set di Elle World. Jennifer Beals, che faceva Jennifer Beals? Un altro di quei film che ha segnato, insomma, la nostra adolescenza. La nostra crescita, sì. Esatto, che era la versione più strong, secondo me, e meno, appunto, meno perché era già, sono, ero già passati gli anni 50, quindi comunque Dirty Dancing era ambientato un po' prima, però anche lì ci siamo cascate tutti, però lei faceva, ha fatto il Flashdance. Che già, però, appunto, se ci ricordiamo, la colonna sonora è appunto uno di quei pezzi che vi sto per mettere, viene da lì. Aveva tante artiste che venivano già dalla disco degli anni 70, comunque c'era una musica un po' più, cioè, raccontava un altro periodo musicale, un altro modo di vivere le cose. Lei era molto agguerrita, ballava da sola, voleva entrare all'accademia, era contro le regole pure lei. Meno male. Sì, sfasciava la macchina al tipo, insomma, era un po' irruento. Ma ci piaceva per quello, appunto, perché appunto se ne fregava assolutamente di stare lì con Pete a ballare col tutù, ma c'aveva la musica dentro, come si suol dire. E a un certo punto in quella colonna sonora c'è quel fantastico pezzo di Donna Summer, ma noi invece ce ne ascoltiamo un altro suo, che è Love to Love, You Baby, che magari appunto così ascoltiamo qualcosa che non tutti hanno sentito, anche se questa canzone pure è famosissima, però siccome poi ci fissiamo sempre su uno, due, tre pezzi, invece ci ascoltiamo questo. Yeah. qua, ce la teniamo sotto, perché questa long version dura 17 minuti, quindi abbiamo voglia, la teniamo qua con noi fino al prossimo pezzo, che è quella con i 23 orgasmi di Donna Summer. Sai che insomma si dice, a un certo punto lei ha raccontato che insomma avevano spento la luce, lei stava sdraiata a terra, ha registrato tutta la parte di sotto, diciamo, di sussurri, gemiti, eccetera eccetera. Cosa non si fa per l'arte comunque. Non era molto contenta Donna Summer di questa canzone, non l'è mai stata, non la voleva nemmeno pubblicare. No, questa appunto è stata, come dicevi tu, una delle prime hit disco, insomma, nel senso che è entrata in classifica, c'è stata per diverse settimane, insomma, e ha lanciato appunto Donna Summer, tra l'altro in questa immagine sexy a cui lei non era particolarmente affezionata, ha cercato per molto tempo di togliersela di dosso, però quando fai un pezzo come Love to Love You Baby, l'immaginario femminile, cioè, esplode. In quegli anni noi parliamo della classifica, io pensavo alla questione della classifica, è stata tanto tempo in classifica e pensavo che, cioè, è stata classifica negli Stati Uniti, in Europa, come singolo solo, quindi in tutte le classifiche praticamente, e stavo pensando, mi ricordavo il fatto che tra gli anni 70 e gli anni 90 le classifiche erano importantissime, cioè anche in Italia, adesso più o meno non se ne parla più, no, le leggi certo. Qualche volta su delle riviste, però insomma addirittura in Italia c'erano dei programmi di musica in cui si facevano le classifiche dei 10 album più venduti, dei 10 singoli, insomma, quindi era una roba che interessava tantissimo. Le chart. Sì, le classifiche varie. E questo pezzo tra l'altro era stato rifiutato dalla BBC, la BBC si rifiutò di mandarlo in onda, e lo stesso arrivò appunto al numero 4 della classifica dei singoli più venduti. Perché là c'era tutta la discussione delle radio libere in quel periodo, le radio che cosa trasmettevano, quelli che trasmettevano dall'oceano in mezzo al mare con la barca, cui mettevano tutta la musica appunto che era considerata di Satana, il rock, piuttosto che Donna Summer. Di lì a poco poi la BBC si sarebbe arresa, abdicato, e avrebbe assoldato i pirati e le piratesse, insomma, che erano sulle navi per farle lavorare la BBC, e infatti la BBC divenne quello che è diventata, Radio One, eccetera eccetera. E io ho provato a cercare, perché mi era venuta l'idea, tipo, andiamo a vedere nel 1975 in Italia qual era la classifica, chi era in classifica, una roba allucinante, a parte i vari stranieri, Abba, Donna Summer, Gloria Gaynor, era una roba terribile, quindi ho cambiato direzione e ho pensato, quali sono gli album che sono usciti nel 1975, quindi nello stesso album di questo singolo? Beh, nel 75 è uscito un album che si chiama Your Mama Won't Like Me, a tua mamma non piacerei, di una artista di cui si sente parlare poco, che invece è stata un'artista molto molto importante nella storia della musica delle donne, che è Susie 4. Lei è una bassista, una cantante, probabilmente la prima esponente, la più importante esponente del glam rock di donne, esplosa negli anni 70, e tra l'altro anche una delle prime, probabilmente la prima bassista a suonare quel genere, insomma, e a cantare contemporaneamente, a stare sul palco con grande aggressività, con grande forza. Qualcuno di voi l'avrà vista, ma non sapeva che si trattasse di lei, nel personaggio di Leather Tuscadero in Happy Days, perché lei ha registrato alcune puntate di Happy Days in cui suonavano lì nel localino, nell'ufficio di Fonzi, dove si vedevano che c'era anche il localino, e lei appunto si è esibita col suo basso e con la sua musica, in quel caso un po' più rock and roll. Quindi 1975, Susie 4, il pezzo che dà il titolo all'album è Your Mama Won't Like Me. And I stay. Insomma, questa era Susie 4. In realtà, come diceva Donna, lei è veramente molto importante ora, perché in realtà lei ha dato il via, tutta la sua band era una band di donne. E comunque, appunto, parliamo sempre, lo sappiamo quanto è stato duro il percorso delle donne prima di arrivare anche alle Riot Girl, o comunque che ha dato la possibilità poi alle Riot Girl di venire fuori, alle band femminili, alle Indigo Girls piuttosto che alle Bikini Kill. Comunque c'è sotto negli anni c'è stato tanto movimento, e tra cui appunto c'era Susie 4, che aveva una band tutta di donne, che lavorava con le donne, che aveva degli ingegneri che erano donne, per cui alcuni membri della sua band ne avevano formato un'altra, che era sempre una band di all female rock band, che si chiamavano le Fanny. Le Fanny venivano prodotte da Leslie Ann Jones, che era un ingegnere anche lei, che è appunto un ingegnere, è un fonico, quello che oggi, cioè, perché in inglese si chiama ovviamente recording ingegnere del suono, sì, ingegnere del suono. E lei poi in quel era una di quelle, c'era un grosso movimento, in realtà c'era molta rete tra di loro, per cui lei poi lavorò per un'altra cosa che non diciamo, perché poi fa parte più o meno di un altro aggancio che abbiamo ritrovato anche dopo, perché in realtà in quel periodo erano tanto connesse tra loro sia le musiciste che le produttrici. Infatti lei faceva l'ingegnere del suono, ma aveva prodotto e produsse anche molte delle cantautrici del periodo degli anni 70, comunque quando vennero fuori anche tutte le cantautrici del movimento, anche lì del movimento femminista, per cui ha dato voce, ha dato possibilità di espressione a tantissime folk singer, perché chiaramente poi la canzone di protesta, poi noi ricordiamo sempre Joan Baez, Joni Mitchell e poche altre, perché poi quelle sono diventate molto famose anche di fama internazionale, ma in realtà in America il movimento era tanto tanto grosso e c'erano tantissime cantautrici. Tra queste cantautrici prodotte appunto da Leslie Ann Jones c'era Holly Near, e che cantava questa canzone che è anticlericale, fantastica. Sì, il testo è bellissimo, lo trovate in rete. Sì, sì, si trova il testo in rete, perché vabbè, appunto, essendo anticlericale, tutti poi gli anticlericali ci saranno incappati prima o poi, e quindi ce l'ascoltiamo. Holly Near and Freed. I ain't afraid, I ain't afraid. of your Yahweh. I ain't afraid of your Allah. I ain't afraid of your Jesus. I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your churches. I ain't afraid of your temples. I ain't afraid of your praying. I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your money. I ain't afraid of your culture. I ain't afraid of your choices. I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your Sunday. I ain't afraid of your spirit. I ain't afraid of your teachers. I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your Sabbath. I ain't afraid of your borders. È figa questa canzone, bellissima. Tra l'altro il testo così a braccio dice: non ho paura della vostra religione, non ho paura della vostra spiritualità, non ho paura delle vostre preghiere, ho paura dell'uso che fate di quella roba, di quella roba. E lei lo cantava, lo diceva con una parola molto più carina ovviamente di quella roba. Era All in Here, I Am Afraid. Sono le 18:15, quindi questo viaggio è finito. Finisce qui, ma non finisce qui in realtà, perché poi chiaramente da qui partiremo, perché da qui partiremo, insomma, ve lo ricorderemo poi quando ricominceremo fra 15 giorni. Da qui partiremo per nuove connessioni, nuovi viaggi e nuove idee e tutto quanto. Ma magari ritorneremo al punto di chissà, giro e giro, a giugno che... dell'anno prossimo è tutto connesso, è tutto connesso, torneremo a Regina Spektor all'ultimo. Penso se riusciamo a farlo, che cosa carina. Vabbè, noi fantastichiamo, voi se volete fantasticare, volete partecipare con noi e giocare in questo modo, voi, una vostra amica, insieme ci volete mandare la vostra chart, abbiamo un blog womenchart.wordpress.com. il podcast di questa puntata lo trovate su mfla.noblogs.org. vi promettiamo di mettervi tutto il viaggio, i link e quante altre, tutte le connessioni che abbiamo trovato, quindi stay tuned, come si suol dire. Ok, e invece il martedì femminista e lesbico autogestito prosegue tra qualche secondo con atti e misfatti, appuntamenti, iniziative, idee, atti, fatti e misfatti di femministe e lesbiche in Italia e a volte anche nel mondo. A presto, ciao.